poesia, con la poesia si possono dire tante cose, si possono esprimere tante cose. Questa sera abbiamo solo due ospiti, proprio per permetterci una serata più calma, più tranquilla. La scorsa trasmissione di venerdì, quindi 27 novembre, ha riscosso molto successo. Si tratta, brevemente lo ricordo, del nuovo programma di poesia, per il momento all'interno di Tela Sonora, ma comunque non è detto, nel senso che vogliamo ampliarlo, sempre con la nostra regista Paola G, che praticamente grazie a lei riusciamo così a mandare in onda le note, le parole, il suono della poesia. E con i due conduttori, Giorgia e Mario, che veramente sono stati bravissimi. Questo nuovo programma, Certi Sistemi, è un programma che avvicina tramite la poesia, quindi con questo tono sempre poetico, molto, molto cauto, molto anche a volte silenzioso e molto così raccolto, avvicina temi quali la mafia, la camorra, l'andrangheta. Abbiamo un programma di mandare parecchie poesie, intervistare parecchi poeti, parecchi personaggi, quindi sarà, diciamo, un programma che è nel tempo, quindi Certi Sistemi è andato in onda per la prima volta il 27 novembre, ma vedrete che ci saranno altre puntate con altre sorprese. Quindi io volevo ringraziare Paola G e Giorgio e Mario, che sono stati bravissimi, perché veramente è stata un'ottima puntata. Questa sera riprendiamo invece il tono sempre poetico con Alessio Brandolini, Tevere in fiamme, e un nuovo poeta che non abbiamo mai ascoltato alla Tela Sonora, Guido Conforti, con il suo libro Cetera, che sono elaborazioni, diciamo, poesie elaborate in un modo particolare, con la vecchia scrittura proprio dei caratteri della macchina da scrivere, e in alcuni casi scritte su pagine diciamo in diagonale, quindi bisogna girare il libro, e ci sono un po' come dire, c'è una grafica particolare, questa grafica cura di Guido De Marchi, che in qualche modo vuol seguire il tono delle parole di queste poesie. Allora, ne approfitto anche per dire che con Guido Conforti abbiamo deciso, poeta genovese che si occupa di urbanistica nonostante la sua laurea in giurisprudenza, abbiamo deciso, ed era già nell'aria, di portare avanti a partire dal 2010 il vecchio progetto di architettura urbanistica attraverso la poesia. Non sarà sempre possibile parlare solo esclusivamente di poesia, ma pertanto per dirvi che un amico caro, Mario, mi ha regalato un bellissimo libro di urbanistica di Le Corbusier. E proprio Le Corbusier, quindi è un libro molto vecchio, edito dal Saggiatore, proprio Le Corbusier inizia una specie di così presentazione di questo libro parlando di poesia. Ve la voglio leggere proprio per introdurre questo lavoro poi di Guido Conforti, che farà insieme ad altri poeti liguri e genovesi, e coi quali si parlerà di architettura urbanistica. Vi leggo comunque l'introduzione di questa rivista urbanistica di Le Corbusier. La città è uno strumento di lavoro. Le città d'oggi non assolvono più comunemente questa funzione, sono inefficienti, logorano il fisico e mortificano lo spirito. Il disordine che sempre più vi regna è indisponente. Lo stato di decadenza in cui si trovano ferisce il nostro amor proprio e urta la nostra dignità. Le città non sono più degne del loro tempo, non sono più degne di noi. Una città è l'affermazione dell'uomo sulla natura. È una manifestazione della potenza umana contro la natura, un organismo umano che garantisce sicurezza e lavoro. È una creazione. La poesia è opera umana, una serie di rapporti che si pongono tra immagini percepibili. La poesia della natura non è altro che una costruzione dello spirito. La città è un'immagine profondamente suggestiva che stimola il nostro spirito. Perché mai non dovrebbe continuare ad essere ancora oggi una fonte di poesia? E poi continua, ma questa sarà la sorpresa del prossimo anno, tanto per dirvi che quindi la nostra idea di urbanistica e architettura legata alla poesia non è poi così folle E poi, insomma, Le Corbusier, se ci ha pensato Le Corbusier, ci ha pensato un maestro. Quindi siamo sulla strada giusta. Ringraziamo Radio Alma per averci dato questo spazio che è iniziato, come sapete, svariati anni fa con Brussellando, poi la tela sonora si è staccata per tutto l'anno 2008 e 2009, poi quest'anno a partire da settembre abbiamo avuto un po' questa idea di moltiplicare, di dare spazio a Ich Nunc, quindi con due venerdì al mese a partire dalle 21 e poi quindi Certi Sistemi, e a partire dal 2010 restate con noi perché si parlerà quindi della città dell'uomo e quindi di questa grande avventura attraverso l'urbanistica e la poesia. Allora, diamo spazio adesso alla musica, perché questa sera abbiamo forse più musica che poesia, perché abbiamo deciso proprio di goderci, Paola ed io, qui in radio, la musica e poi le parole dei poeti, quindi una puntata più lenta, più curata, e quindi speriamo vi piaccia. Allora, Paola, vuoi dirci tu questa sera chi ascolteremo? Dai che lo so chi sono. I Double Sense. Ascolteremo ovviamente gli immancabili Double Sense. Perfetto, e poi? Poi ascolteremo The Parrots. Parrots, sì. E Lucio Pacifico. Lucio Pacifico, perfetto. Non sono artisti nuovi. Benissimo. Nel nostro programma. Quindi. Certo. Voi sapete che noi cerchiamo anche di dare spazio proprio al suono, all'importanza della parola, quindi cantata, della musica, perché la tela è una tela sonora, quindi accoglie parole, accoglie suoni e li manda quindi on air, giusto per voi, cari amici ascoltatori. Quindi vi lascio i microfoni, Paola, primo pezzo. Restate con noi e a dopo. Non ci la guarda senza stella che stanotte sembra più forte. Tira orma occhi aperti, ingannando chi stu cuore sembra più scura. C'entra paura giù passata, superata. Senza paure care, senza paure sapere. Solo una speranza chi stu trena sa portata. A chi sapeve soffrì, senza paure sapere. Che con umana, ma con una stimmana. Io non so toccare, ma io rimango. Che io voglio forte, stanotte sai non dorma. Te vega rindana luce, che forte sai ma luce. Senza stella che stanotte sembra più forte. Tira orma occhi aperti, ingannando chi stu cuore sembra più scura. Beh, io a questo punto vorrei approfittarne. È la prima volta che prendo il microfono in mano, ma diciamo che parlare non è il mio forte, soprattutto quando so che c'è gente che mi ascolta, per fare l'in bocca al lupo ai Double Sense per l'uscita imminente del loro prossimo disco. E per ricordare il loro indirizzo MySpace, www.myspace/doublesense, e ne approfitto per passare un altro brano. Spero di poterli incontrare prestissimo, di poterli invitare qui a Bruxelles, eventualmente per organizzare un concerto o qualcosa di simpatico insieme. Quindi ascoltiamo un altro brano di Double Sense. Via. Forever, river. Impotenza nell'agire, nel decidere, nel vivere. Senso occidentale del termine. Enrico Rezzi non se l'aspettava, almeno non così presto, no. Alla vita diverte sorprendere, è vero, alle volte. Ho provato ad andare a puttane, ma questo non ha fatto altro che mandare a puttane anche il resto. La dignità, innanzitutto, avrebbe detto. Davanti Enrico immagini si scambiano non recepite, doppie, offuscate e rallentate, con difficoltà talvolta evidenti dall'introduzione quasi coatta nel plasma di copiosa materia etilica. Si resta fermi all'anno 2014. Avanti Cristo, paga da bere, sorriso alla barmed, il resto però corre, lo mancia, va riutilizzato. Ecco divenire prodotto liquido attaccato dai succhi gastrici la moneta, va riciclato. Elefanti che mangiano iave e escrementi, naufrago assorbente la propria urina. Qualcosa non ha funzionato, e il vomito lo schiaccia, il vomito lo affoga. Neanche l'intelligenza, che solitamente sorregge la razza con il subdolo inganno, permettendo di acchiappare significanti difettosi, seppur Nau nella foga si arresta, ed Enrico Rezzi debole e in balia degli eventi, nave senza rotta, in balia dei venti. Sera di venerdì 1/8/2014, ultimo pasto 5 pm, primo 5,50 euro, 3 pezzi di fritto 2,30 euro cada uno, stomaco vuoto, fattore importante, luogo casa, quantità 2, tipologia Tuborg, centilitri 66 33x2, gradazione 5, luogo casa, quantità 1, tipologia meloncello, centilitri 10, gradazione 17, luogo Mamamoo, quantità 1, tipologia Long Island ST, centilitri 25, gradazione 27, euro 7, luogo Zozzoso, quantità 2, tipologia Southern Comfort, centilitri 20, 10x2, gradazione 32, euro 8, 4x2, luogo Zozzoso, quantità 1/3, tipologia Long Island ST, centilitri 8, gradazione 26, euro 2, luogo Aretha Palm, quantità 1, tipologia Rum e Cola, centilitri 25, gradazione 15, euro 8, quantità sommatoria 7,3, centilitri totale 154, media della gradazione alcolica ponderata ai centilitri 15,571, totale euro 25. I valori si intendono stimati e comprensivi di ghiaccio. Diario di bordo di un alcolizzato cinematografico. Tornato a casa in tangenziale, 0,80 euro, mi domanderò poi perché. Verso le 3:30 AM, trascorro mezz'ora in preda al male. È l'ulteriore dazio doganale per accedere all'onirico. Mi sveglio con molta sete, misero bicchiere d'acqua all'attivo, arsura acuta, voglia gestante di succo di frutta, ovvero frizzante lemon. In frigo niente di fresco, ergo a prestarmi a uscire. Al bar 12 d'aria. Eccoci di nuovo connessi, cari amici della Tela Sonora 101.9. Abbiamo ascoltato alcuni brani da Bol Sens e poi, se non erro, c'era Lucio Pacifico. Adesso siamo in diretta con il nostro amico poeta Guido Conforti. Ciao Guido. Ciao Gabriella. Ciao, parla forte perché ti sentiamo lontano. E sei lontano. Senti, allora, questa sera abbiamo un pochino più di tempo da dedicarti perché non siamo riusciti a contattare l'altro poeta. Quindi, male per voi, ma bene per me. Infatti. Allora, quindi abbiamo tempo per parlare sia di Samizdat, del tuo libro, eccetera, e anche del nostro progetto futuro di architettura urbanistica, che così, di cui abbiamo parlato mentre eravamo a Genova e che io ho anticipato leggendo una bellissima introduzione di Le Corbusier a una rivista Struttura e Forma Urbana, una collezione diretta da Giancarlo De Carlo. Quindi andiamo per ordine. Prima parliamo di te e della tua esperienza poetica. Raccontaci qualcosa di Cedera e soprattutto di questa casa editrice assai particolare, e spiegaci anche il motivo. Cedera ha visto la nascita un mesetto fa, e raccoglie tutta una serie di poesie che io ho scritto da quando avevo 18 anni, no? Si dice che fino a 18 anni tutti scrivono poesie e poi scrivono soltanto e continuano o i poeti o i matti. Spero di essere un poeta e qui ho raccolto cose molto diverse che vanno, diciamo così, da una poesia tipicamente ligure di stampo anche minimalista a una serie di invece di maggiori sperimentazioni, insomma, che in tutti questi anni ho fatto, sia dal punto di vista del metalinguaggio che di una tentativa, insomma, di trovare un proprio più un linguaggio mio, che io chiamo cerebro visivo, nel senso che mette insieme le esperienze visive che le persone fanno, delle esperienze, delle cose intorno a sé, e la capacità poi di filtrare attraverso il pensiero, e quello che ne viene fuori sono, come dire, un linguaggio che mi sento abbastanza mio. Tutte queste cose stanno dentro a questo libro eccetera, che è edito da Samizdat, che anche nel nome vuole richiamare un filone di letteratura clandestina nata sostanzialmente nei paesi dell'est durante la dittatura comunista, e che con una forma molto particolare, insomma, di battitura proprio a macchina e di scambio porta a porta tra lettore e lettore di quello che veniva scritto, ha mantenuto viva una letteratura proprio in quegli anni estremamente interessante e fuori dagli schemi, in quel caso del regime. E in questo caso l'idea che un mio amico che vive in questo momento a Parma, si chiama Alessandro Cinelli, ha saputo portare portare a casa è quella di una collana che va a pescare nel mondo off rispetto alla grande editoria delle major, soprattutto estranea a quello che è il movimento poetico italiano, una serie di voci che, adesso non parlo di me, ma di quelli che ci stanno scrivendo sopra, mi sembrano molto interessanti. Guido, scusami, ti devo interrompere. Guido, collana, benissimo. Avanti con molti altri poeti. Guido, mi senti? Ti devo interrompere un attimo perché dobbiamo far passare un messaggio di pubblicità. Resta lì con noi, non buttare giù. Ok. Ciao. Resta lì. Bonjour, c'est Philippe Geluc. Médecins du Monde se bat pour l'accès aux soins de santé pour tous, ici en Belgique et ailleurs dans le monde. Et comme eux, comme vous je pense, je trouve inadmissible que des gens malades ne puissent pas recevoir de soins. C'est pour ça que je soutiens les équipes de Médecins du Monde. Alors, ensemble, on peut les aider. Un numéro de compte, 8x0-2929. Je répète, 8x0-2929. Chaque don est important. Bene, siamo di nuovo alla tela sonora 101.9. Guido, scusaci se ci vuoi così, se vuoi riprendere il discorso, e scusa se ti abbiamo interrotto. Non avevo terminato su, insomma, comunque illustrato, penso appunto in cui eravamo arrivati, della natura abbastanza particolare di questa collana di letteratura veramente off rispetto ai canali tradizionali della pubblicazione, della mediazione e anche della distribuzione, perché avviene veramente utilizzando in maniera innovativa quelli che sono gli strumenti che ci danno le nuove tecnologie per usare un libro, per stamparlo, per impaginarlo, per promuoverlo e per distribuirlo. Lo trovate soltanto acquistandolo su internet o nelle presentazioni che vari poeti o scrittori fanno, presenti in questa collana, fanno per l'Italia e per l'Europa. Mi sembra interessante, poi se avrete tempo e modo anche di eventualmente ritornare, non con me, ma, o non solo con me, ma con l'editore, l'ideatore di questa collana, che è Alessandro Cinelli, su questo tema, mi sembra che sia un argomento interessante. Per me è stata l'occasione per editare in un modo che a me piace un libro di poesia che altrimenti difficilmente con i canali tradizionali avrei trovato un mezzo altrettanto consone ai miei obiettivi, insomma, quello che penso e spero e non la voglio fare, insomma. Senti, parlavamo giusto di quindi editoria medio-piccola, senza grandi nomi, senza finanziamenti. Ecco, allora, sicuramente la tua proposta di contattare il responsabile di questa pubblicazione, Alessandro Cinelli, lo sai, ne abbiamo già parlato, è qualcosa di fattibile, soprattutto in previsione un altro anno della Fiera Off, che qua a Bruxelles ogni anno si svolge intorno alla prima settimana di marzo, in contemporanea alla fiera, quella conosciuta da tutti, la Fiera del Libro, che noi chiamiamo IN perché la fiera effettivamente dove i grandi nomi, le grandi case editrici affluiscono e si presentano e quindi vengono a Bruxelles a proporre le loro opere. Quindi ottimo averne già parlato, sicuramente chiameremo questo personaggio, questo ragazzo, signore, non lo conosco ancora, ma prima di passare quindi a parlare dell'altro progetto invece, e prima di farti altre domande, cerchiamo un attimo di capire come scrivi, perché tu hai parlato anche di poesia cerebrale, quindi il pensiero come poi viene buttato giù di getto, eccetera. Mi parlavi anche di un'altra esperienza che hai fatto, e quella di scrivere una poesia o comunque un testo grazie all'intervento di più persone che incominciano a scrivere dove un altro ha terminato. Ne vuoi parlare adesso oppure vuoi prima leggere le tue poesie? È proprio quando ho parlato anche prima proprio di Alessandro Cinelli, è una delle persone insieme ad altri oltre a me e lui altre 10 persone con cui 7-8 anni fa abbiamo provato a fare come dire, non un romanzo a più mani o in questo caso a 12 mani, perché siamo appunto stati 12 persone che hanno concepito una modalità, io credo, innovativa di scrivere. L'abbiamo fatto con una, e qui forse poi mi attacco già ai temi a voi, a te cari, quello dell'architettura, cioè dell'attento studio di una forma preesistente all'atto poi creativo con le parole. Noi abbiamo molto attentamente studiato proprio uno schema in cui gli scrittori potevano inserirsi. Ora al telefono e in questo modo è difficile tra l'altro spiegare come effettivamente questa cosa è stata possibile. Per aiutare insomma gli ascoltatori posso dire che all'interno, ripeto, di una serie di paletti che ci siamo dati di base, e quello che uno scriveva veniva, scaturiva, diciamo così, da una sorta di sinapsi logica o anche emozionale rispetto a quello che nello schema teorico preesistente un altro scrittore prima di lui aveva scritto, e così via. I capitoli sono 99 di questo libro per 12 persone, sono concatenati l'uno all'altro in una maniera che si sviluppa autonomamente, tra l'altro da infiniti modi di lettura, di appropriarsi come lettore di questo di quest'opera. Esiste certamente la modalità classica, che è quella di leggere dalla prima pagina all'ultima, ma esiste anche la modalità di poter muoversi liberamente all'interno della rete che costituisce l'architettura di base per fare dei percorsi propri. Questo penso che sia proprio un'esperienza interessante. È stata interessante nello scriverlo. Noi abbiamo ricevuto tra l'altro numerosi commenti interessanti e significativi anche dai lettori. E questa è stata un'esperienza di qualche anno fa, che ci ha fatto maturare proprio un po' tutti quanti nei confronti insomma delle frontiere quotidiane attuali dello scrivere. Senti, ci vuoi leggere alcune poesie e poi magari ti faccio alcune domande, perché ormai insomma un pochino abbiamo chiacchierato, però è interessante anche che quanto tu mi hai detto la scorsa settimana lo possano ascoltare anche i nostri amici radioascoltatori. Quindi con la tua voce alcuni testi da te scelti, se mi dai il numero della pagina ti seguiamo anche noi che siamo in radio. Io comincerei con la cosa che si trova in cetera più tradizionale e più classica da un certo punto di vista, che con la quale voglio rendere, da un lato, e ho voluto quando l'ho scritta rendere omaggio alla mia città che è Genova, e dall'altra questa l'ho presentata e ha vinto un premio internazionale di poesia al Festival Internazionale di Poesia di Genova del 2003, se non vado errato, al 2003, e questo, come dire, lo faccio anche perché è forse il modo più semplice di avere rapporto con l'ascoltatore su quello che scrivo. Le altre cose poi magari andremo un po' più su cose più innovative d'accordo, o meno classiche, tra virgolette. Benissimo, perfetto. A Genova ti porterei dal mare, ed è un modo che io invito, con il quale invito tutti a scoprire Genova per come è, che è partendo proprio dal mare, avvicinandosi a questa città meravigliosa non da terra ma dal mare. A Genova ti porterei dal mare, che tu scoprissi la lama piantata nel fianco alla montagna, e mentre il gozzo sciabordando si avvicina, si accendessero i forti e i santuari ad uno come stelle di maggio all'imbrunire. Ti sbarcherai rapido al mandraccio e infilandoci nell'ombra sotteripa ti avvolgerai di umidi odori di fritti, di pesce e di segatura. Ti condurrei sicuro fra rugose seraccate di neri palazzi e chiese bianco-nere, sbreghi di luce e gatti pigri. Scivoleremo di porta in porta fino all'attacco di una rossa cresa bordata ad edera e difesa da alti muri e denti aguzzi di bottiglie frante. e mentre ogni rumore si disbanda tra isolati richiami di fringuelli, raggiungeremo un portico, un balcone, una veranda, e da lì, polvere di madreperla, vedresti Genova com'è, gelosa e schiva, baciata al mare e in esso flessa. Beh, non posso dire. Ho dimenticato la pagina 35. No, 30. No, ma l'avevo già trovata, l'avevo già segnata perché lo sapevo che avresti letto questa. Come non leggere la poesia sulla tua città e poi la poesia che ti ha portato ad avere. Direi che, se posso permettermi, letta da te, molto più bella, comunque dà un'idea chiara di come sia Genova. A volte Genova è una città, come tu dici, gelosa e schiva, è difficile visitarla, è difficile che un turista riesca a coglierne un po' la bellezza e anche a volte la durezza, perché non è una città facile anche per gli abitanti e per gli stessi genovesi. Senti, andiamo avanti, leggici qualcos'altro, qualcosa di, come tu hai anticipato, con uno stile più contemporaneo, quasi innovativo e magari sperimentale. Ti lascio scegliere. Allora, io potrei leggere un quadro, sì, da questa cosa che ho fatto e tra l'altro ho portato abbastanza in giro in Italia in questi ultimi anni, che si chiama 8 mm e mezzo, ed è proprio l'esempio primo, secondo me più riuscito, che ho cercato di fare in tema proprio di poesia cerebrovisiva, come ho definito prima. Anche questo è di per sé una sorta di viaggio, è un viaggio che inizia in luoghi riconoscibili anche qui della mia città, che è Genova, poi se ne distacca totalmente, ed è, come dire, una sorta di percorso nell'esperienza quotidiana. Ne leggo una. Va bene. Se mi permetti, una e mezzo. Va bene. Perché una è molto breve, l'ultima, e che sono alle pagine 93 e seguenti. Okay. La chiusura di questi quadri, quindi, che sono 8 e mezzo, appunto, leggo l'ottavo e il mezzo finale. D'accordo. Per agevolare, le poesie non si spiegano mai, ma soltanto per agevolare, mancando tutto quello prima, dalla parte prima, l'ascoltatore, dico che il quadro, diciamo, più lungo, che si intitola Nero Sipario e Nero Boccascena, va a chiudersi su quello che è il sentire di una persona non più in grado, di vivamento da parte di un interlocutore esterno di capire, se in grado di capire e di avere relazione con la realtà esterna al termine della vita, e invece l'ultimo mezzo quadro, La vita precipitata, pagina 97, è esattamente il contrario, ed è quello che penso possa capire o sentire o provare una persona agli albori della vita. Detto questo, forse poco comprensibile, prova a leggere, dimmi tu e ditemi voi se... D'accordo. Prende. Nero il sipario e nero il boccascena. Se pensa, cosa pensa? I dottori dicono non pensa, associa, dispone, incrocia, intreccia, ricompone lo svolo di un'organza, il ritmo di una danza, il sapore del tamarindo, una tappezzeria di stanza, la sua stanza forse, o quella di suo nonno, il nocchiero, il condottiero nero, le losanghe bicromate, grigio ocra, un picchettio di passi svelti, una risata, un trillo, un grido acuto, un vagito, i panni stesi, il ghiaccio della piscia che si ghiaccia scorrendo, defluendo sul cotone buono del corredo, le placente, le frattaglie, i torrenti di montagna, il fieno, il baleno che brucia, il fienile, l'ada, la china e crepita, con sbuffi di ciminiera in fiore, la collina la vedi tu dalla cucina che ti ripari dietro lo spioncino di una persona accosta, smerigliata, mal disposta, la feritoia scosta, sono occhi gialli quelli del lupo e verdi della lince, scappa Gretel, scappa e rotola tutto quello che non è sia e tutto quello che è non sia, precipitata che sia la bambina in un mondo immondo dove le suore insegnano il ricamo e non potrebbero davvero fare altro. incontro con le loro mani di mollica, troppo docile sei stata, mascelle di lupo e di lince avresti dovuto, e non ti saresti svegliata con le caviglie nel torrente, le trecce chiuse da un elastico di velluto blu di Prussia, impastato dalla polvere rossastra della Carrareccia, grumi rossastri di sangue rappreso, un macello, un'ordalia da sottoporre i tuoi 20 anni incauti, anche se poi tutto passa, tutto scorre e si dimentica, tranne la fame, che quella invece ti fa grattare il pane secco e metter via l'olio del fritto, non si lava la padella ma si asciuga con la carta straccia, la casa vuota, non per le bizze di un arredatore, prendi dall'off-post-post-moderni con studi a Parigi, Londra e San Gimignano, il pesce lo vendono in strada, il venerdì mattina il sole brilla sulle squame delle buche e sulle tue idee di casa piena di nuove risate e trilli e grida e vagiti e panni stesi, essere moglie e maglia a una catena spessa che gira in fretta, troppo presto si incetta e si scarrucola, basta poco, una piccola deriva, un quotidiano balbettio, un filtro di un bagliore, uno scarto alla riviera e il sogno è andato, il gioco pure, rimane da salire purché sia in sobbalzi provvisori, in effimere schiarite, nero il sipario e nero il boccascena, solo un vago odore di arancio e di gelsomino. L'altro, la vita precipitata, se pensa cosa pensa, i dottori dicono non pensa, illumina, scandaglia le nuvole di raso rosa, segue il salto dei conigli che affondano tra i gigli bianchi della china erbosa, non pensa, assorbe, rifrange, riflette, troppo latte si spande stilla a stilla, non pensa, vibra, scintilla, trilla, un sicantino, un sottile campanino che tocca e che ristacca ad ogni filastrocca un vago odore di arancio e di gelsomino. No, questo. Allora, devo dire? Dimmi. Beh, mi è piaciuta tantissimo entrambe, però soprattutto Nero il sipario. Ho avuto come la sensazione giustamente di un film che andasse all'acceleratore. Sì. L'idea è quella. L'idea è questa. Beh, ci sei riuscita, anche perché il modo di leggere, il modo anche che è indotto da come è stata scritta, perché avendo il libro, è chiaro, il radioascoltatore non può saperlo, però io avevo detto che all'inizio le pagine non corrispondevano alla verticalità, nel senso alcune poesie sono scritte in modo assai strano e con caratteri presi da una vecchia macchina per dartelo a scrivere. Dicevo che quindi è un po' un film, un cortometraggio all'acceleratore, e se vogliamo anche un po' il senso della vita, quasi l'illusorietà, iniziare in un modo e poi terminare in un altro abbastanza in fretta senza rendersene conto, e avere un po' questo sapore amaro in bocca. Tu mi hai detto che sei una persona molto positiva, però in questa poesia la tua positività non la vedo, o forse non la so leggere io, perché è abbastanza dura come poesia. Non so, vuoi dire qualcosa tu? Ma mi è dato un attimo di una voce, non ho capito bene il finale. Dicevo che non ti sembra molto positiva. No, infatti, nel senso quasi mi rimane un po' il gusto amaro in bocca, quindi volevo sapere. Normalmente, tra l'altro, io non quasi mai, voglio dire, in quello che scrivo ci sono degli evidenti riflessi autobiografici. Tra l'altro questa Nero si parla nella bocca scena, se hai visto o hai letto, sì, fa riferimento a una donna, quindi non ha attinenza alla mia esperienza personale. No. Di per sé, come dire, è in qualche misura vuole anche essere il rapidissimo e velocissimo legale con una persona proprio al termine della vita, perché non so dire se sia positivo, non positivo, triste o meno, ma è comunque un appuntamento a cui purtroppo, insomma, tutti quanti siamo tenuti a dover fare i conti, fa con la propria esperienza. Quindi, come dire, spesso si dice, no? Chi rientra anche da alla vita cosciente da momenti o di coma o simili, che spesso i racconti parlano di un film della vita che si rivede in un attimo. Sì, sì. Ecco, l'idea di questa poesia è proprio quella di recuperare in una, appunto, ipotetica donna, voglio dire, quelli che sono stati non una storia come la scriverebbe uno scrittore tradizionale, insomma, ma un flash di impressioni, di fatti che sono capitati o che possono capitare, insomma, nella vita di una persona, non necessariamente quindi con una qualità, almeno dal mio punto di vista, positiva o negativa o altro, ma in quanto tale. Chiaramente in questa parte, in questa poesia, c'è il crepuscolo di una vita che va a concludersi, quindi in questo senso posso capire che dà quel tipo di impressione. Quella successiva è una vita che va a iniziare ed è tutta un'altra coloritura, insomma, infatti è verissimo, di altro genere, ma sì, questo dipende appunto dal fatto di avere voluto accostare due opposti l'uno all'altro, di cui uno ovviamente è molto più lungo perché ha anche volutamente molto più lungo perché ha tutta un'esperienza di vita alle spalle che si traduce in colori. Nell'altro caso è proprio un albore di vita che quindi, voglio dire, sì, molto più leggero e quasi impalpabile. Senti, tu sei papà di tre bimbe, quindi e in più quindi vivi con tua moglie. Come vedi la figura femminile moderna, contemporanea, e anche la figura, se vogliamo, femminile italiana e nella tua città di Genova? Bella domanda, nel mio privatissimo la vedo benissimo, nel senso che come dire, sono delle, mi trovo benissimo, voglio dire, nel modo di ragionare, di confrontarmi, e anche di, lo trovo forse più semplice dal punto di vista di genitore, in questo momento della storia, avere a che fare con bambine rispetto che con bambini, ma questi sono forse dettagli. Proprio in questo libro, adesso bisogna riprendere dove, è proprio un 8 mm e mezzo, c'è proprio un'altra scena di questi 8 e mezzo che fa riferimento al rapporto con le persone di sesso femminile, che per un accenno mio personale, ecco, nella mia storia sono sempre stati più normalmente e mediamente più profondi e più facili rispetto all'incontro con le persone del mio sesso, che spesso ho trovato, insomma, siano più superficiali, sempre, ripeto, ovviamente nella media, o più difficilmente capaci di entrare nel profondo. Quindi diciamo che mi trovo meglio non soltanto a stare nel quotidiano, ma anche a relazionarmi con persone di sesso femminile, per quanto riguarda la mia persona. Per quanto riguarda la società, io credo che, insomma, stiamo vivendo un momento con molte contraddizioni e avanzamenti e anche ritorni all'indietro, ma sostanzialmente io credo di grande sboccia, insomma, della figura femminile nella società. Se guardiamo un po' in profondità negli ultimi decenni, e questo penso che sia soltanto un bene, ecco, per la società, e ho parte della fiducia che ho per il futuro, più della volontà forse che della ragione, è dovuta anche a questo bagaglio straordinario di risorse che proprio il genere femminile ha portato, insomma, ed è presente nella società. Bene, ci uniamo a te con questa positività e con questo anche desiderio. Senti, invece, allora, intanto direi, se tu sei d'accordo, di ringraziare Sergio Gibellini, perché grazie a lui noi ci siamo incontrati. Certamente. Ed è nata quindi questa, no, questa idea che abbiamo avuto una settimana fa insieme, di partendo dopo le feste di Natale, cercare di coinvolgere alcuni poeti, 6, 7, pensavamo 8 al massimo, di questi poeti che tu conosci, con i quali hai scritto e hai collaborato, e grazie a Sergio magari anche riprendere, adesso non so in quali termini, ma magari per ciascun poeta, uno spazio di Genova, un luogo, una piazza, una facciata, che architettonicamente o urbanisticamente, perché dipende anche un attimino dal contenuto della poesia, possa in qualche modo spiegare la personalità del poeta stesso, e così un modo anche per chi leggerà il blog visitare la nostra Genova, che poi è una città molto bella e molto, è tutta da scoprire. Quindi io in questo ci tengo a dire che è un'idea che abbiamo avuto, ma lascio a te la regia, nel senso sei tu la persona che conosce i tuoi amici poeti, e grazie a Sergio credo che, dal momento che è molto bravo nelle riprese, credo si possa fare, ecco, questa idea sia fattibile, sia realizzabile proprio in una città così ricca, perché Genova dal punto di vista architettonico presenta un po' tutti gli stili, un po' tutte le, i modelli, le ispirazioni. Quindi ti lascio qualche settimana per pensarci, quando magari ci vediamo a Natale ne riparliamo e mi dirai se è possibile già incontrare qualche poeta e buttare giù insieme il progetto. Spero che ti piaccia questa idea. Tu sai che qua a Bruxelles il Club del Libro, che abbiamo fondato con un amico di Latina, Massimo De Martino, ci stiamo attivando per organizzare qualcosa di speciale a partire da gennaio, che sarà una presentazione di un progetto di Dale e Barbara, Dale Zaccaria e Barbara Gozzi, proprio sul corpo, visto dal punto di vista poetico, dal punto di vista impegnato, politico, il corpo della donna, in questo caso di Eluana Englaro, e poi il corpo anche visto dal punto di vista architettonico, proprio per unire queste tre caratteristiche e anche toccare i vari quattro elementi. Allora, io credo che, così ti ho detto alcune cose, se ti fa piacere anche i poeti potrebbero venire a Bruxelles. Ne avevamo parlato, pensateci un attimo anche come, perché qua abbiamo la Casa Liguria che rappresenta la Liguria, quindi si può anche vedere di utilizzare i loro spazi e quindi dare non soltanto una voce alle parole dei poeti, ma anche un'immagine, quindi mostrare con questa presentazione, questa giornata o serata, questa conferenza, un po' la nostra città. Quindi che ne dici, Guido? Vuoi aggiungere qualcosa? Di tutto quanto, un po' conosco Bruxelles e anche Casa Liguria, quindi già mi immagino che possa essere molto, molto interessante, molto bello, e anche poi fare prima questo che ci sollecitavi a fare, cioè utilizzare la nostra città, che non è soltanto molto interessante, molto bella, ma anche molto scenografica, quindi se Sandra Gebellini in effetti riuscisse a seguirci un po' in angoli diversi, penso che sia chi la conosce sia chi non la conosce possa averne un'idea interessante. E poi ti butto giù, facciamo un film, facciamo un cortometraggio poetico della nostra città, sarebbe un'idea eccellente, un cortometraggio poetico. Va bene. Senti, allora ecco, se ti vuoi aggiungere qualcosa, magari tu hai presentato, mi hai detto che hai commentato un progetto di ampliamento e di modifica del porto di Genova l'altro giorno per motivi di lavoro. Vuoi anticipare qualcosa, visto che parliamo anche di architettura, oppure non puoi? Sì, porto e non solo, nel senso che per motivi professionali mi occupo proprio di architettura e di architettura, di urbanistica, dal punto di vista mio proprio, che per background formativo e professionale è quello dell'economista e del giurista urbanista, quindi dal punto di vista quindi dell'utilizzazione della città per funzioni d'uso come quelle economiche. Certo. Quindi questo è il mio approccio professionale al tema. Per Genova questo è un tema molto attuale, perché in questo momento si sta discutendo del futuro urbanistico della città, si sta revisionando il piano regolatore, come si chiama in Liguria, il piano urbanistico comunale, che riguarda sia la città che il porto, perché differentemente a moltissime altre città di mare, il porto, come tu sai, a Genova e a Savona e la Spezia, tra l'altro, che in piccolo insomma hanno la stessa caratteristica, è proprio connesso ed è dentro al tessuto urbano della città, e questo è da un lato molto particolare, dall'altro crea tutta una serie di delicatezze, di difficoltà anche proprio maggiori all'urbanista. È un momento molto interessante, molto florido da questo punto di vista qui in città. Sono coinvolti anche grandi architetti come Renzo Piano, come Richard Barbett, che è un grande architetto londinese, su questi argomenti. Insomma, tutta la città, ognuno per il proprio specifico e per la propria punto di vista, sta collaborando a questa avventura. Tra l'altro, per chi possa venire in città nei prossimi mesi, il luogo fisico in cui avviene tutto questo è una chiatta galleggiante disegnata da Renzo Piano, poi realizzata da Fincantieri, che è proprio galleggiante nella darsena storica del vecchio porto di Genova, e quindi c'è questo incontro quotidiano tra architetti, urbanisti, economisti, rappresentanti di associazioni o meno, che giornalmente salgono a bordo di questa chiatta vedendo da Genova, da come l'avevo letto nella prima poesia, perché lì, visto dal mare, si incontrano per disegnarla, speriamo, nel modo migliore. Benissimo, senti, io, se sei d'accordo, ci salutiamo, ma vorrei che tu ascoltassi, sono alcune parole che ho letto di Le Corbusier sulla città, tratte da una rivista edita dal Saggiatore, che parla proprio di poesia. Se vuoi ascoltare, poi ci salutiamo, perché la puntata volge al termine. Una città. Okay. Una città è l'affermazione dell'uomo sulla natura, è una manifestazione della potenza umana contro la natura, un organismo umano che garantisce sicurezza e lavoro. È una creazione. La poesia è opera umana, una serie di rapporti che si pongono tra immagini percepibili. La poesia della natura non è altro che una costruzione dello spirito. La città è un'immagine profondamente suggestiva che stimola il nostro spirito. Perché mai non potrebbe e non dovrebbe continuare ad essere, ancora oggi, una fonte di poesia? Bene, cari amici della Tela, abbiamo praticamente raggiunto il termine della puntata. Ringraziamo Guido, grazie Guido, ci risentiremo presto per questo nostro progetto, la Tela Sonora e l'Architettura. Un grande abbraccio e ti lascio. E ciao, lasciamo anche i nostri, lasciamo anche i nostri amici radioascoltatori. Non c'è più tempo per un pezzo musicale, ma comunque questa sera ve ne abbiamo offerti già parecchi. Vi ringraziamo, vi salutiamo e lasciamo gli spazi adesso a Ike Nung. E il prossimo venerdì ci sarà di nuovo la puntata dedicata a certi sistemi. Ciao a tutti, un bacio e a presto. 21 heures.